Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Chi vi parla è Roberto Galullo. Subito la mail alla quale segnalare casi. Un abuso al giorno @radio24.it. Vi segnalo anche il mio blog. Possiamo dialogare anche in questa forma. robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore alla voce Agora. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di diritto di cronaca, diritto all'informazione, e parliamo degli abusi che quotidianamente a questo diritto costituzionalmente anche tutelato, preservato e, come dire, protetto, avvengono appunto in tutta Italia. Abusi ai quali noi giornalisti siamo abituati, ma contro i quali combattiamo giorno dopo giorno. Diritti che cercano di violare chi? Ma solitamente chi ha qualcosa da nascondere o chi interpreta male il proprio ruolo. Infatti parliamo oggi di un caso che sta avvenendo a Creazzo, siamo in provincia di Vicenza, dove un sindaco ha emanato un curioso regolamento, comunque una serie di norme che di fatto limitano o impediscono il diritto di cronaca e, ahimè, rendono molto meno trasparente quella che è l'amministrazione comunale, che dovrebbe essere un'amministrazione per propria natura assolutamente chiara, limpida, trasparente e aperta alla conoscenza. Noi avremmo voluto parlarne anche con il sindaco di Creazzo, perché sapete, chi segue la mia trasmissione sa che chiamo sempre tutte le parti a confrontarsi e dialogarsi, ma a me il sindaco di Creazzo, Gervasio Cortiana, a capo di una giunta di centrodestra, pur da noi inseguito, ha cortesemente 2 minuti fa rifiutato l'invito. Non vuole parlare. Bene, e allora parliamo con chi ci sta. Innanzitutto con Marco Milioni, collega veneto, che ci ha segnalato il caso. Buongiorno Milioni. Buongiorno. Allora, al di là del provvedimento scritto con un italiano da codice penale, che cosa dice di così, come dire, riduttivo nei confronti della nostra professione questo regolamento? Dove viene limitato nella tua professione e perché? Sostanzialmente si tratta di un regolamento che pone dei paletti molto ferrei, molto rigidi, perché di fatto impedisce a chi voglia fare delle riprese o comunque a chi voglia fare una serie di riprese appunto sul campo di farlo, a meno che non ci siano delle autorizzazioni che il presidente del consiglio comunale, nel qual caso la figura del sindaco, perché il comune è sotto i 15.000 abitanti, può autorizzare o non autorizzare senza tra l'altro fornire una motivazione, giustificazione. Quindi può dire, caro Paolo Rossi, tu mi piaci, dico Paolo Rossi perché è un nome, diciamo, tra i più diffusi in Italia, caro Marco Milioni, tu non mi piaci, caro Giuseppe Bianco, prego avanti, si accomodi, mi riprenda, magari mi faccia anche una bella inquadratura, tu invece no, non entri, è così? La questione è molto semplice, c'è una parte del regolamento del Consiglio Comunale approvato a Creazzo che dice sostanzialmente che ci sono giornalisti o comunque operatori dell'informazione che garantiscono il diritto di informazione e quindi possono entrare in sala consiliare e riprendere con le telecamere, con i registratori o quant'altro, e altri che non ci sono. Si tratta di un concetto campato secondo me per aria, perché dà alla giunta e soprattutto al sindaco una capacità discrezionale, una possibilità di discernere quindi tra operatore e operatore dell'informazione che io non avevo mai visto. È una cosa che mi ha da un certo punto fatto sorridere, ma soprattutto mi ha inquietato, perché non si capisce chi ha i titoli per garantire l'informazione seria e chi no, soprattutto non è un'amministrazione comunale, a mio giudizio, che possa dare queste patenti. Ecco, ma a me francamente ha colpito un altro aspetto di questo regolamento, cioè nella parte in cui lascia discrezionalità all'amministrazione, quindi al comune, quindi diciamolo, sostanzialmente alla giunta, perché non credo che il consiglio vada a fare battaglie su queste cose, in cui appunto l'amministrazione può decidere di prendere le riprese girate tenerle per un po' di tempo in comune, depurarle delle parti che non piacciono o che non sono ritenute congrue o non so cosa, o addirittura vietarne tout court la diffusione. È vero o non è vero, Milioni? È vero, le cose stanno così, si tratta di una parte che è diciamo normata nella seconda parte del regolamento, che a mio giudizio è quella così un po' più fantasiosa. E il problema è che una formulazione fatta in questa maniera, a mio giudizio, rischia anche di avere qualche problema da un punto di vista diciamo della congruità, della correttezza amministrativa dell'atto, perché va in qualche maniera a normare ambiti che non sono di spettanza del comune. Ciò detto, la cosa che più mi ha lasciato sbigottito è il fatto che un'amministrazione comunale, nella fattispecie un sindaco, diventi una sorta di regista che, a seconda di ciò che viene detto in aula o non viene detto in aula, può decidere di tagliare, censurare, oppure non dire, dire, permettere di magari montare a proprio uso e consumo, certo, la ripresa svolta, il filmato effettuato. Tu hai, certo, detto regista, a me viene in mente un altro termine, censore, e mi sarebbe tanto, ma tanto piaciuto parlarne con il sindaco. Ripeto, si chiama Gervasio Cortiana, ma io direi a questo punto di chiamare in causa il presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, Gianluca Amadori. Buongiorno Amadori. Buongiorno a voi. Allora, io direi a lei una riflessione e un commento generalmente su questo regolamento, poi andiamo nello specifico. Devo dire che siamo rimasti sconcertati. Oggi, finché vi parlo, è in corso anche il Consiglio dell'Ordine del Veneto. Riteniamo che sia un provvedimento veramente che limita in maniera pesante il diritto di cronaca e di critica, diritti che sono sanciti, non dimentichiamoci, dalla Costituzione. Tra l'altro abbiamo già anche deciso di incaricare i nostri legali per valutare la possibilità di impugnarlo, di impugnare questa delibera in sede giurisdizionale, perché riteniamo che i consigli comunali sono luoghi pubblici, e questo direi che è una questione sulla quale è indiscutibile, e non è legittimo impedire la messa in onda dei consigli, o tanto peggio, quello che diceva lei, è prevedere un obbligo di censura, di parere preventivo sulla possibilità di quali immagini trasmettere. Ecco, a me no, questa seconda parte francamente mi inquieta, è quella sulla quale io vorrei invitare anche i nostri radioascoltatori a riflettere. Cioè, c'è una persona che si arroga il diritto di dire questo va in onda, questo non va in onda. Io dico, cari radioascoltatori, accade questo a Creazzo, nel civile Veneto, treno non soltanto economico ma anche sociale del nostro paese. Le chiedo, Amadori, ma è un caso isolato nella sua regione, oppure, come dire, avete il senso, il sentore che nei confronti del lavoro dei giornalisti l'aria diventi sempre più pesante? Ma di questo è un caso assolutamente isolato, e non abbiamo notizie di altri regolamenti di questo tipo. Che poi ci sia una tendenza a non sopportare i giornalisti quando i giornalisti fanno il loro lavoro, ovvero cercano di capire come stanno le cose, fanno domande scomode, ovvero quelle che vanno fatte. Di solito ci sono sempre prese di posizione molto dure, polemiche, attacchi, e questo purtroppo è un fenomeno che sta crescendo. Se mi consente, se posso tornare alla delibera, perché ci sono un altro paio di punti che mi hanno lasciato perplessi. Nell'articolo 8 si parla, dopo la visione preventiva di queste cassette, in ogni caso questo regolamento vieta di esprimere opinioni e commenti durante le riprese, cosa che peraltro veramente, cioè, come mandare in onda una seduta del Consiglio senza commentare e senza esprimere opinioni su che cosa succede. O una partita, di calcio senza audio, insomma. Questo tra l'altro è contrario, questo lo cito perché esistono dei pareri del garante della privacy in materia che dice esattamente il contrario. Io dico che potrebbe essere in linea di principio giustificato quello di identificare chi va a fare le riprese, però dare un'autorizzazione, questa delibera prevede un'autorizzazione una volta all'anno da presentare domanda entro il 15 dicembre, voglio dire, se qualcuno vuole andare a seguire il consiglio per una notizia, per una... Sì, soltanto per un fatto, per una seduta, cosa fa? Certo. Devo dire che per onore di cronaca e del vero, che questa delibera è abbastanza, come dire, vaga e ambigua, nel senso che in una parte dice che non si applicano a chi garantisce il diritto all'informazione, però la cosa è abbastanza fumosa e quando si presta a fraintendimenti, ovviamente si presta anche ad abusi, come assolutamente, dicevo, magari assolutamente. A qualcuno viene dato l'accesso, a qualcun altro no, e questo non è assolutamente. Allora, cari radioascoltatori, io ringrazio per il loro intervento Amadori, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, e il collega Marco Milioni. Vi invito, lo dico ai radioascoltatori, qualunque professione essi facciano, a segnalare a un abuso al giorno @radio24.it altri casi simili, se esistono in Italia mi auguro di no, perché da parte mia non sentirete mai difendere tout court la nostra categoria, ma vi invito a riflettere sul fatto che il diritto di cronaca, di informazione è, e il diritto di parola che ne consegue, è uno dei beni più sacri che abbiamo tutelati nella nostra Costituzione. È l'essenza, è il sale della democrazia. Quindi grazie in regia a Valeria Bernardi, in studio a Laura Faggini, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.